Scusatemi, rubo proprio 2 minuti per un saluto perché qualche mese fa, 2 o 3 mesi fa, Beniamino mi contattò per essere presente qui con voi questa sera nell'occasione della presentazione del libro su Don Bruno che avrei voluto accogliere con grande piacere, non tanto perché ho da dirvi delle cose, nel senso io non l'ho conosciuto per fama, insomma, per tante cose, però poteva essere un'occasione buona per leggere il libro, e tra l'altro ecco, non ho ancora potuto fare perché, sapete, la situazione nostra è ancora molto, molto difficile e impegnativa nell'accoglienza di questi ragazzi migranti. Dovevo essere, dissi a Beniamino di no, perché io questa sera dovevo essere a Trieste, perché a Trieste, sapete, c'è quella realtà, un'associazione veramente straordinaria, Linea d'Ombra, che da 2 o 3 anni fa questo servizio, questa azione umanitaria, no? Nei confronti dei profughi della rotta balcanica, che Lorena Fornasir si voleva ecco, presentare questo librettino che io poso, scrive la nostra esperienza recente, però l'incontro. Non sono andato, non sono potuto andare perché per motivi un pochino anche di sicurezza ci hanno consigliato di non andare perché sapete che abbiamo un problemino con Fabio Tujak, il signore Novax, fanatico, religioso, col quale c'è in corso un processo per diffamazione, perché c'è stato uno scontro. Ma un'aggressione soprattutto ecco, da parte sua, poi alla fine su queste cose, poi alla fine sul modo di essere preti, sul modo di essere, no, vivere anche una vocazione al servizio degli ultimi, in questo ecco, totale ecco, dono, che purtroppo è tanto, ancora tanto incompreso. Quindi, niente, qui per dirvi semplicemente per ringraziarvi di questo lavoro che hai fatto, che anche Alessandro ha promosso, perché credo sia prezioso, perché quella stagione lì, quella stagione di chiesa, quella stagione di impegno che sappiamo. Tuttora nella Chiesa non ha molto spazio. Lo vedo, sperimento nel mio piccolo, perché poi quando ci si confronta con questi personaggi, vuol dire, no? Riconosci. Dall'altro, ho avuto la mia fortuna, quello sì, lo devo dire. Non ho conosciuto Don Bruno, ma ho avuto l'onore in questi ultimi anni di essere accompagnato da un'altra figura straordinaria, che secondo me dovremmo recuperare la memoria, che è Don Ezio. Don Ezio Palombo, quando veniva lì a Pecofaro, ricordo tutti i sabati pomeriggio, anche lui là, sempre sentirlo parlare. La luce di quella stagione era lì, poi sentivo parlare Don Milani, quindi era stata un'occasione ecco, davvero molto bella, ecco, ho avuto questa fortuna. Non so. E niente, quindi credo però, sono convintissimo che quella stagione di chiesa, quella stagione di società, La stagione culturale, proprio tutto, effettivamente ha delle caratteristiche che forse oggi non sono pienamente ripetibili, però delle intuizioni io credo che sia fondamentale, ecco, conservarne la memoria e come farla conoscere, perché credo che sono convintissimo, soprattutto ecco, nell'ambito ecco, ecclesiale, quella testimonianza profetica, no? Di quella stagione fiorentina, no? Tutti conosciamo, sono convintissimo ecco, tornerà perlomeno, tornerà ecco, a dare ancora stimolo, intuizione, come ha sempre dato, ma spero e credo anche sempre più anche a livello più ufficiale, no? Rammentavate la visita di Papa Francesco a Barbiana, sono segnali importanti, certo, c'è sempre soltanto ancora ambiguità sul riconoscimento da parte ecco, della Chiesa di questi ecco, personaggi, ma la storia dei profeti non è mai stata tanto semplice. Quindi, di nuovo, ecco, grazie per il lavoro che avete fatto e coglierò, vi prometto, l'occasione quest'estate sì, di poter approfondire e leggere. Ciao. Grazie.